As Gangman, it's solo Paranormal Family. Dopo lo già è studio, realtà diverse. Hey, benvenuto a Sud Obe. Questa non è la terra dei fuochi come dicono in tele. Il sud, la storia intera è bellezza. È inutile, che parliamo sempre a Ramonese. Sarà Napoli a Caserta, passando per Salirne. O sai che siamo figli di tutta la stessa terra. Sta città è bella come una cartolina, ma è ancora più bella, si può vivere da vicina. Simmero sud, non c'è sta paragone. Simmero nata zona, pure nata nazione. Risce cacca, ho problema simmanuia. Ma quando viene un marracata stai non te ne fuia. O me genuia, non te ne geni fatica. Simmo famosa, perché tenimmo l'arte d'arrangia. Rappresento sud, o sai che quando parte. Rappresenta Napoli, non un a parte. Nord e sud, tutte sti difficoltà. Nord e sud, scorda la diversità. Nord e sud, qualcosa cambierà. Non basterà una canzone, ma noi ci amma brua. Nord e sud, tutte sti difficoltà. Nord e sud, scorda la diversità. Nord e sud, qualcosa cambierà. Non basterà una canzone, ma noi ci amma brua. Benvenuto al nord, benvenido fra te. Qui non trovi il sole e il mare non c'è. Gelo e nebbia, ma la gente non è fredda. Se lotti e ti impegni e tieni quello che ti spetta. Sì, ma i diversi, sempre gli stessi. Siamo spessi, stessi gesti. Componiamo versi per la nostra città. Voi avete Hamsik, noi Palazzo Cacca. Brrrià, Milano è Terrona. Ho amici siciliani che vivono a Verona. A Verona, su a Torino, Tortona, Savona. Nord e sud, siamo della stessa zona. Frate, siamo ragazzi che sognano l'alba. Sì, sempre senza casco in circonvalla. Perché? A Milano l'uomo ha mille colori. Ma frate, vedi Napoli e poi muori. Nord e sud, tutte sti difficoltà. Nord e sud, scorda la diversità. Nord e sud, qualcosa cambierà. Non basterà una canzone, ma noi ci amma brua. Nord e sud, tutte sti difficoltà. Nord e sud, scorda la diversità. Nord e sud, qualcosa cambierà. Non basterà una canzone, ma noi ci amma brua.